Ma questi sono gli MSTR. Bomba! Nella vecchia fattoria c'è un Mazzoli che mi urla pipi porco. Poi mi volta e c'è un Paolone che mi prende a schiaffi ed urla pipi cane. Ma per fortuna spunta un Fabio che con calma mi domanda in inglese. Uè, cazzo ci fai qua? Io penso che per tutto questo c'è una ragione. Se in questo posto ognuno tira sempre un porcone, è un grande manicomio pieno zeppo di pazzi. Fra schiaffi, peti e rutti, ma son bravi ragazzi. È il mondo dello zoo, zoo di 105, zoo di 105, zoo di 105, Zodi 105.